Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. È morto in carcere nella notte Totò Riina, il capo dei capi della mafia, il boss delle stragi, mandante degli assassini di Falcone e Borsellino. A Ostia, Molotov contro il portone di una sede del PD, domenica al voto dopo il commissariamento per mafia. Carige, Consob sospende i titoli dalla borsa, management al lavoro per avere il consorzio di garanzia entro lunedì. Studenti in piazza in tutta Italia, nuova protesta contro l'alternanza scuola-lavoro, i provvedimenti del governo. Torna il campionato in grande stile nel fine settimana, il derby tra Roma e Lazio. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali andiamo anche in diretta video. Se volete ci potete seguire e potete scriverci anche là. Dall'altra parte del vetro, Paolo Corleoni in regia, Laura Faggin in assistenza in redazione. Dunque iniziamo dalla morte di Totò Riina. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Se n'è andato con i suoi segreti, che sono quelli di una precisa stagione di Cosa Nostra, ma sono anche i segreti del momento in cui quella mafia aveva messo a rischio la tenuta stessa della Repubblica, con le sue relazioni anche esterne al clan. Ma fino alla fine Totò Riina è stato l'indiscusso capo dei capi, anche dopo l'arresto nel 93, dopo 24 anni di latitanza, dal più duro regime carcerario, il 41 bis, dove era condannato a 26 ergastoli, ha continuato infatti a mandare segnali e messaggi. Minacce ai nuovi magistrati, a cominciare da quelli sul processo sulla trattativa Stato-mafia ancora in corso a Palermo, e racconti sibillini nelle conversazioni intercettate in carcere, in cui parlava tra l'altro anche di altri boss come Matteo Messina Denaro, rimasto l'ultimo super latitante. Di sicuro, per dirla col presidente del Senato Pietro Grasso, che fu giudice all'atere del maxi processo di mafia, la pietà non cancella il sangue versato. Quella fu la più sanguinosa guerra di mafia mai avvenuta, in cui Palermo, anche prima delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, era come Beirut, per dirla con un celebre titolo del quotidiano L'Ora. Per lui, morto a 87 anni nell'ospedale maggiore di Parma, non ci sarà un funerale pubblico. Non è pensabile, dice esplicitamente il portavoce della conferenza episcopale Don Ivan Maffei. La Chiesa non si sostituisce al giudizio di Dio, ma non possiamo confondere le coscienze, aggiunge ricordando la scomunica del Papa. E a quanto risulta nessun religioso è stato contattato. Il guardasigilli aveva concesso l'autorizzazione alla moglie e ai figli, uno dei quali a sua volta condannato all'ergastolo, di raggiungere il padre per raggiungere il padre prima della morte, ma non sono arrivati in tempo. Silenzio, chiede ora su Facebook la figlia, mentre il fratello di Paolo Borsellino, Salvatore, ricorda che con lui scompare un'altra cassaforte, con riferimento a quella che si trovava nella covo in cui fu arrestato, per cui c'è stato un processo per la mancata sorveglianza e perquisizione. E a gestire la procura di Palermo in quella stagione, subito dopo le stragi, c'era Giancarlo Caselli, che abbiamo sentito poco fa. Sembrava che tutto stesse per crollare sotto i colpi della mafia spietata, di Riina, che aveva ucciso con le stragi di Capaci e di Via D'Amelio il cuore dello Stato italiano. E invece siamo riusciti a resistere, a fare argine, tutti insieme. E questo percorso di resistenza comincia con l'arresto di Riina. È una sorta di riscatto, l'inizio di un lungo riscatto del nostro paese. La dimostrazione che abbiamo tanti problemi di mafia ancora oggi, ma sappiamo essere anche il paese dell'antimafia. Questo ha rappresentato l'arresto di Riina, cui seguiranno tantissimi altri importanti arresti, da Brusca a Bagarella, ad Aglieri, a Spatuzza, a Graviano e via seguita. La morte di Riina oggi, indubbiamente per quanto riguarda, diciamo, gli equilibri dell'organizzazione criminale di nome Cosa Nostra, non è un fatto qualunque, però io vorrei soprattutto ricordare che oltre questo o quel capo, prima di tutto, soprattutto, c'è l'organizzazione, che si avvale anche delle cosiddette relazioni esterne, cioè di coperture, complicità, collusioni con pezzi della politica, dell'economia, delle istituzioni. Oggi la mafia c'è ancora, ma quotidianamente forze dell'ordine e magistratura si danno dentro e ottengono risultati importanti. Sono dei misteri, è certo. No? Io preferirei parlare prima di tutto delle cose che sono state risolte, delle cose positive che sono avvenute a partire dall'arresto di Riina. Così dunque Caselli, e grazie a Raffaella Calandra per il suo aggiornamento e per questa intervista che ha realizzato. Alla morte di Totò Riina è dedicata l'analisi del venerdì di Daniele Biacchessi. Totò Riina diceva che Paolo Borsellino lo aveva tenuto sotto controllo, perfino intercettato al telefono, e che per colpirlo bisognava fare in modo che lo stesso magistrato azionasse inconsapevolmente il telecomando posto nel citofono dell'abitazione della madre, in via D'Amelio, a Palermo, 19 luglio 1992. A Giovanni Falcone, il 23 maggio 1992, Ucuotu si vantava di avergli fatto fare la fine del tonno, alludendo alla visita del magistrato all'isola di Favignana durante i giorni della mattanza. Riina si compiaceva perché il 29 luglio 1983 a Palermo, in via Pipitone Federico, a Rocco Chinnici gli aveva fatto fare un volo, e più recentemente ai magistrati impegnati nel processo Stato Mafia gli avrebbe macinato le ossa. Riina era un duro, uno spietato anche con i suoi picciotti, dotato di un'intelligenza criminale unica, di una capacità di organizzazione militare perfetta. Era dunque uno stratega della nuova strategia della tensione mafiosa. Tra il 1992 e il 1993 Riina, insieme a Messina Denaro, Provenzano, Bagarella, Brusca, i fratelli Graviano, alzò il livello di scontro contro lo Stato con le stragi di Capaci, via D'Amelio, via Fauro a Roma, via dei Giorgofili a Firenze, via Palestro a Milano, contro le basiliche di Laterano e Velabro a Roma. Poi, con funzionari infedeli dello Stato, avviò la trattativa che si concluse con la fine dello stragismo. Se ne va un soldato del terrore che aveva compreso bene la regola fondamentale per la sopravvivenza in un vertice criminale: l'assoluto silenzio. E quel silenzio lo ha portato ad una morte naturale. Così dunque Daniele Biacchessi. Spostiamoci a Ostia, dove domenica si vota. Sale la tensione a Ostia in vista del ballottaggio di domenica. L'ultima giornata di campagna elettorale si apre con il fuoco. Ignoti hanno infatti incendiato il portone del circolo del Partito Democratico locale. Immediate le reazioni, il PD non si fa intimorire né minacciare, avverte il segretario Matteo Renzi. Così anche il senatore Dem Stefano Esposito, già commissario del PD sul litorale romano. Paura neanche l'ombra. Non stupisce la reazione di quel territorio mafioso nei confronti del PD. Un gesto vile, intimidatorio, che dobbiamo respingere, dice il ministro della giustizia Orlando. Solidarietà anche dai 5 Stelle e dalle altre forze politiche. Un episodio che è facile collegare alla manifestazione antimafia che si è svolta ieri ad Ostia, promossa dal sindacato dei giornalisti e dall'associazione Antimafia Libera, e durante la quale una troupe della trasmissione L'Aria che Tira ha subito minacce con l'auto trovata con le gomme tagliate. Tutto questo mentre continua anche lo scambio di accuse tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, che si sfideranno al ballottaggio con le loro candidate Monica Picca e Giuliana Di Pillo. L'ultimo casus belli, la foto che ritrae la leader di Fratelli d'Italia Meloni e la sua candidata assieme a Silvano Spada, esponente del clan. La Meloni ha già annunciato querela per diffamazione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Spostiamoci all'estero da registrare oggi innanzitutto le dichiarazioni che arrivano da Brett McGurk, che è l'inviato del presidente americano Donald Trump in Iraq. I giorni del falso califfato stanno per finire, dice. Le forze irachene, con il sostegno della coalizione, annunciano la liberazione di Rawa, tra le ultime aree popolate in Iraq ancora nelle mani dei terroristi dell'ISIS. Nel frattempo sullo scenario medio orientale si stanno muovendo molte cose. Il premier libanese si è dimesso mentre era in Arabia Saudita, e questo ve lo abbiamo raccontato, e sarà in Francia sabato. Ma molto più della sola vicenda libanese e di quella irachena è tutto quello che si sta muovendo nello scacchiere. Sentiamo l'analisi di Alberto Negri. Nel Golfo e Medio Oriente la pace e la guerra, così come la ricchezza delle nazioni e la miseria dei popoli, corrono su un filo teso e sottile. Siamo un tornante decisivo nello scontro tra il fronte sunnita e l'Iran, di cui è rimasto vittima anche il premier libanese dimissionario Saad Hariri, atteso in queste ore in Francia, dopo aver passato alcuni giorni come ospite ostaggio dei sauditi. I paesi arabi, ma anche noi, stiamo facendo i conti con le conseguenze della guerra in Siria dopo la sconfitta dell'ISIS. I paesi arabi sunniti del Golfo, insieme alla Turchia, hanno perso la guerra contro Bashar Assad, sostenuto dall'intervento della Russia, dell'Iran e delle milizie libanesi Hezbollah. La Turchia però ha ormai abbandonato gli arabi per allearsi con Putin e l'Iran. Così i sauditi, guidati dal principe ereditario Mohammed bin Salman, vogliono prendersi una rivincita. L'Arabia Saudita, già impantanata nella guerra in Yemen contro gli Houthi alleati di Teheran, vuole spingere anche Israele verso un conflitto contro la Repubblica Islamica. A decidere cosa accadrà saranno la Russia e gli Stati Uniti, che mantengono basi militari e truppe in Siria in una sorta di condominio. Washington e Mosca sono d'accordo nel non cambiare i confini della Siria e ora dovranno trovare il modo di frenare i loro alleati nella regione, altrimenti saranno guai. Un conflitto all'Iran sarebbe come una sorta di guerra mondiale in Medio Oriente. La vicenda di Banca Carige, il titolo sospeso in attesa di chiarimenti, sospeso dalla Consob. Marco Ferrando, Il Sole 24 Ore, dacci un quadro di giornata. Marco, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Continua la trattativa che da ieri vede protagonista da un lato la banca, in particolare il Consiglio di Amministrazione, e le banche d'affari che dovrebbero garantire l'aumento. Si lavora proprio col pallottoliere perché la banca deve raccogliere entro fine anno, così ha chiesto la Banca Centrale Europea, 500 milioni. Al momento i soci attuali ne hanno di fatto garantito la copertura per poco più della metà. Si sta appunto lavorando per capire se con queste premesse le banche che avrebbero dovuto far parte del consorzio di garanzia, cioè Barclays, Credit Suisse e Deutsche Bank, siano disponibili a garantire per il resto, di fatto esponendosi al rischio di investire perlomeno in una prima fase 200 milioni sulla banca. Rispetto a ieri sera sembra di vedere qualche spiraglio, la posta in palio è altissima perché come si vede sul mercato anche oggi la tensione in generale sui titoli bancari è tornata a essere molto alta e quindi un epilogo non positivo per Carige sicuramente creerebbe problemi alle altre banche, in particolare quelle medie. Per ora direi che è tutto, a voi. Grazie dunque a Marco Ferrando, ovviamente sull'andamento dei mercati vi aggiorneremo alle 13.30 nell'appuntamento consueto. Sono in corso proteste in tutta Italia degli studenti aderenti ai collettivi contro l'alternanza scuola-lavoro. Ragazzi, tutti assieme, siamo gli studenti delle scuole di Milano! Si protesta in particolare contro le misure promosse dal governo Gentiloni contenute nella legge di bilancio per il mondo della scuola e dell'università. Gli studenti richiedono anche l'approvazione dello statuto degli studenti in alternanza, ovvero di quella carta che sancisce i diritti e i doveri dello studente impegnato nel progetto. Stiamo sentendo quest'audio che, come avrete intuito, visto lo dicono gli stessi studenti, viene da Milano. A Milano si chiede anche l'approvazione dello Ius Soli. Oggi i funerali delle donne morte durante la traversata del Mediterraneo con una nave, i cui corpi erano stati recuperati e portati con una nave a Salerno, erano 26. Rose bianche sono state appoggiate sulle bare delle 26 ragazze nigeriane morte nel Mediterraneo all'inizio di novembre, i cui funerali si sono tenuti oggi a Salerno, dove i corpi delle donne recuperate in mare da una nave militare spagnola erano stati portati lo scorso 5 novembre. Le donne, tutte giovanissime, fra i 14 e i 20 anni, sono morte per annegamento, come ha stabilito l'autopsia. Su due bare le rose appoggiate erano più di una, perché l'autopsia ha stabilito anche che due di loro erano in gravidanza. Cinque hanno finalmente un nome. Due di loro hanno avuto anche dei parenti alle esequie. Per Marianne Sciacca c'era il marito, per Osato Osaro il fratello. La piazza dove si sono tenuti i funerali era affollata di cittadini di Salerno, di studenti e delle autorità locali, nessuna autorità nazionale. Noi celebriamo una morte difficile da comprendere e da giustificare. Dobbiamo farci carico di questa morte, ha detto Monsignor Moretti, arcivescovo di Salerno, nel corso delle esequie. Gli ha fatto eco l'imam Abderrahmane El Sba, che ha detto: preghiamo l'unico Dio, che è il Dio della pace. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La violenza sulle donne, 1522, il numero gratuito antiviolenza e antistalking per tutte le donne appunto che subiscono violenza. La sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi e la consigliera in materia di pari opportunità Lucia Annibali hanno presentato questa mattina la campagna di comunicazione per promuovere il numero. Era felicissimo, non si aspettava questa sorpresa. Abbiamo parlato tanto e ci siamo ritrovati. La violenza ha tante parole. Noi vogliamo sentire le tue. Sblocca il coraggio. Chiama il 1522. Due gli spot per aiutare le donne a denunciare. Il numero è un primo passo. Donne che hanno età diverse, ha sottolineato la Boschi, che subiscono violenze diverse. Da gennaio a ottobre sono state 26.480 le chiamate. Oltre l'80% sono italiane. Oltre il 70% ha figli. Veniamo al quadro politico di giornata, che mi sembra anche oggi Elisabetta Fiorito che si concentri sul centro-sinistra, no? Sì, un po' sul centro-sinistra, un po' sul centro-destra, sicuramente sulle alleanze, caro Simone. Ancora è il tema di queste ore. Romano Prodi nel centro-sinistra darà una mano per l'unità, ma senza scendere in campo. Il professore, ricordiamo, ha incontrato Piero Fassino, che è indicato come il pontiere del PD a Bologna, e userà la moral suasion per riunire PD e MDP. Parlerà con tutte le forze in campo e sarà, dice, la colla Olivinaville del centro-sinistra. Intanto continua l'opera di mediazione di Fassino, che oggi incontrerà Giuliano Pisapia di Centro Progressista, e da parte sua Piero Fassino non si sbilancia sul candidato premier. Dice: è inutile pensarci ora, prima si devono vincere le elezioni, la legge elettorale non prevede che si debba annunciare il presidente del Consiglio. Quindi per ora il nome del segretario PD Matteo Renzi non c'è. Questa è la sostanza, Simone. Ma di leadership parla anche il centrodestra, con la contrapposizione tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. L'ex cavaliere attacca: la Lega non avrà mai i voti necessari per indicare il premier, ne avrà meno di noi. E seppure i 5 Stelle fossero il primo partito, ma la coalizione di centrodestra dovesse avere più consensi, dice Berlusconi, il Presidente della Repubblica dovrebbe dare l'incarico a noi. Questa è la sostanza. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Quasi a farci dimenticare una brutta settimana per la nazionale, arriva un fine settimana di campionato che invece si prospetta quantomeno frizzante, Carlo Genta. Ciao. Dimenticare? Dimenticare un po' difficile. Abbiamo vissuto una delle settimane più dure della storia del calcio italiano, con mille risvolti, gli ultimi dei quali, insomma, si stanno consumando in queste ore, si sono consumati ieri. Grazie a Dio arriva il campionato. Sì. Dicevi tu, con due grandi partite del sabato, perché alle 18 di domani c'è il derby di Roma, che vale tantissimo per la classifica, e non solo, perché la Roma è qualcosa di grande e sta cercando, insomma, punti in classifica e autostima. La Lazio, qualcosa di grande, lo è già da tempo, dunque è la partita più sentita, come sai bene, nella capitale. E si gioca domani alle 18, una sorta di, vogliamo dire, spareggio per chi vuole sognare? Diciamolo pure. Poi domani sera c'è Napoli-Milan, che invece ha un segno diverso. Il Napoli vuole continuare il suo sogno in testa alla classifica e ce la può fare. Il Milan vuole terminare invece di avere gli incubi e non so se ce la possa fare. Vediamo come si presenterà a San Paolo dopo questa sosta della nazionale, che peraltro ha portato via diversi giocatori. Quindi il succo di questa giornata sta in gran parte nel sabato del villaggio. In questi due match. Per tutto il resto, cioè tutti convocati a partire dalle 14. Grazie Carlo. A voi. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi iniziamo il nostro giro d'Italia e torneremo in parte sui temi che abbiamo trattato ieri, perché la marcia dei migranti partiti da Cona sta proseguendo. Come vi abbiamo raccontato ieri, c'è stata una persona che ha perso la vita, una situazione che resta difficile non solo a Cona ma anche a Bagnoli di Sopra. E poi ci occuperemo di un liceo nel centro di Roma dove a quanto pare succede di tutto: petardi durante la ricreazione, sesso in classe, video che girano e i genitori che difendono i figli. Ne parliamo tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato lungamente della morte in carcere di Totò Riina, delle Molotov contro il portone di una sede del PD a Ostia, di Carige, degli studenti in piazza e, come avete sentito, abbiamo toccato anche il tema del campionato. Il nostro Giro d'Italia invece inizia da dove abbiamo lasciato ieri, quantomeno a quest'ora, ossia il tema dell'immigrazione e dell'accoglienza e della gestione di alcune strutture che stanno esplodendo. È il caso per esempio della struttura di Cona, che siamo tornati a raccontare ieri e che stiamo affrontando dall'inizio di questa settimana. Una situazione drammatica, 1000 persone all'interno di quella che è sostanzialmente una tendopoli, alla quale per ragioni di sicurezza vengono tolte le stufette. Inizia questa marcia di protesta con i migranti che si dirigono verso Venezia perché vogliono arrivare alla prefettura, in questo momento in parte ospitati in una serie di parrocchie lungo la strada. Sono 10 chilometri, se guardate su una mappa sono 10 chilometri tra Conetta, il luogo nel quale la base militare nella quale sono accolte queste persone, accolte si fa per dire naturalmente perché le condizioni le abbiamo raccontate lungamente, e a pochi chilometri di distanza, una decina di chilometri di distanza, altra provincia, quella di Padova e non quella di Venezia, però c'è Bagnoli di Sopra, un luogo che ha vissuto e in parte sta vivendo la stessa situazione. Siamo in linea col sindaco Roberto Milan, che torna da noi. Buongiorno, bentornato sindaco. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno. Come vanno le cose da voi? Vanno un po' meglio, certo non c'è la protesta, la marcia di migranti, ma decisamente siamo al limite. L'effetto contagio è un effetto che io temo, ho già contattato più volte le forze dell'ordine, per adesso la situazione è apparentemente tranquilla. Nella caserma di Bagnoli, sindaco, quante persone sono ospitate? Da quel che vi è dato di sapere, perché poi tra l'altro voi stessi sindaci non avete mai informazioni precise, perché sono informazioni in possesso del Ministero dell'Interno, delle cooperative che ci lavorano e via dicendo, quanti le risulta che ci siano? Si dice bene. Il dato che ultimo che ci è stato detto dalla prefettura sono 530. Quindi un numero ridotto rispetto a quello che c'era già solo quest'estate, quindi in parte è stata svuotata la caserma di Bagnoli, sì, o no? Sì, in parte è stata svuotata, e dobbiamo dire sì, effettivamente le condizioni numeriche iniziano a diminuire e a migliorare, però sono 550-530 persone in un territorio ristretto comune di Bagnoli Sopra, 3.600 abitanti e a 10 km dal centro di Conetta. Una concentrazione che, come vedete tutti i giorni, sì. Più o meno 1700 persone accolte, e lo ripeto, questo accolte lo mettiamo tra virgolette perché sono in condizioni atroci, anche imbarazzanti per un paese occidentale. Ci sono 1700 persone nell'arco di 10 chilometri, con appunto un rapporto tra abitanti e tra residenti, no, nel paese, e migranti, che è pazzesco a questo punto. Sì, possiamo dire è il più alto d'Italia, perché altre concentrazioni ci sono a Milano, nella città di Milano, nella città di Bologna, anche nel vicino Treviso, ma sono 300 persone, ma su un capoluogo di provincia i numeri sono totalmente differenti, le proporzioni totalmente differenti. Quindi possiamo dire con tranquillità sono le proporzioni più alte di tutta Italia, e quindi è l'esempio, possiamo dire tranquillamente, l'esempio più negativo di tutto questo sistema di gestione di migranti. E la tragicità della cosa, più che le condizioni, è il perdurare per un lunghissimo tempo, un anno e mezzo, anche due anni, in attesa di un riconoscimento o un diniego totale, ecco, del riconoscimento della richiesta d'asilo. Certo. Tempi biblici, estremamente biblici, che da un lato è estrema espressione della mala gestione, ma dall'altro non si riesce a capire se dalla mala gestione c'è una linea di demarcazione o no dal malaffare, perché tutti sappiamo che più giorni stanno qui, ogni giorno sono 35 euro al giorno a persona, capiamo bene che il meccanismo economico potrebbe essere quello che spiega tutto. Sì, più che malaffare, affare, punto e basta. Comunque la ringrazio, può darsi anche che ci sia malaffare, ma quello lo appura la magistratura, diciamo. Comunque è economicamente conveniente per alcuni soggetti e questo lo sappiamo. Grazie comunque Roberto Milan, sindaco di Bagnoli di Sopra, provincia di Padova, per essere stato con noi. E adesso affrontiamo un argomento che è particolare, perché è una cosa che si sta estendendo a macchia d'olio nei vari comuni. È qualcosa a cui sta pensando anche Milano dopo i saluti fascisti. Ricorderete la foto, no? In ricordo dei caduti della decima Hamas. Torino ha già provveduto. Qual è l'idea? L'idea è di non concedere spazi pubblici a chi manifesta idee fasciste, razziste, omofobe, transfobiche o sessiste in genere. Torino ha già approvato una mozione in questa direzione. Mimmo Carretta, consigliere del Partito Democratico del Comune di Torino, buongiorno, che ha avuto l'approvazione vostra, ovviamente della sinistra, e anche del Movimento 5 Stelle, che tra l'altro governa Torino. Carretta, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Ma come fa ad impedirlo e a impedirlo preventivamente? E soprattutto, non c'è anche un elemento di violazione della libertà d'espressione? Cioè, qual è la linea di demarcazione? Ma guardi, io dico solo una cosa, che visto quello che sta succedendo ad Ostia oggi, solo ci hanno bruciato la sede del partito. L'altro giorno abbiamo inaugurato una sede nell'Interland di Torino e ci siamo trovati una bella svastica incisa sul vetro. L'idea qual è? Purtroppo ne avremmo fatto volentieri a meno, ma bisogna alzare l'asticella dell'attenzione. È necessario tornare a coltivare la cultura democratica, rivivificare la memoria storica, affrontare in modo collettivo i diversi neofascismi e l'emergere di idee razziste, omofobe, xenofobe. L'altro giorno una ragazza è stata insultata su un autobus di Torino solo perché è una ragazza di colore. L'ha fatto per 40 minuti sotto gli occhi di tutti. Sì, ho capito, però non riesco a capire esattamente nel momento nel quale uno organizza una manifestazione. Questa manifestazione, allora, se è uno che ti dice sono del partito fascista, è chiaro che gli neghi la piazza, non gliela concedi evidentemente. Ma come fai a sapere preventivamente che non sarà una manifestazione omofoba? Oppure qual è la linea di demarcazione tra l'omofobo, il contrario alle unioni civili perché è cattolico o cose di questo genere? Questo snodo che non riesco a comprendere. Capisco, è molto delicato. Il problema è che adesso il Comune di Torino sta mettendo giù una serie di correttivi ai regolamenti che regolano la concessione di spazi. Ci sarà un'autocertificazione da firmare dove associazioni che sono comunque riconducibili, è inutile nasconderci dietro un dito, a formazioni razziste e xenofobe, dovranno dichiarare di aderire ai valori della Costituzione e quindi all'antifascismo. Lei mi dirà, ma ci sarà anche il caso in cui c'è una sfumatura per cui le associazioni dichiareranno il falso. Perfetto, e allora a quel punto ci sarà il Comune che interverrà, così come quando si dichiara il falso per ottenere una piazza o d'altro, mettendo in una blacklist quelle che sono le associazioni che evidentemente hanno dichiarato il falso e sono andate in piazza a manifestare valori che sono contrari a quelli della nostra Repubblica. Allora, io la ringrazio Mimmo Carretta per averci chiarito cosa contiene al momento questa mozione. Continuo a conservare qualche perplessità, soprattutto sulla possibilità di applicare questa cosa a tutti gli effetti, però vedremo. Poi, su certe cose interviene anche il codice penale alla fine. Grazie a Mimmo Carretta, consigliere del Partito Democratico al Comune di Torino. Voglio chiarire all'ascoltatore che dice ma siete impazziti perché parliamo della questione dei migranti in termini, secondo lui, troppo morbidi. Non c'è morbido o non morbido. È un posto nel quale vengono ammassate 1200 persone in una tendopoli senza riscaldamento non è degno di un paese civile, a prescindere da dove provengano queste persone. Il tema è esattamente questo: come gestisci l'accoglienza? Non ci interessa se siate a favore o meno dell'arrivo di migranti, o su come viene gestito tutto questo, su come intendete regolare le espulsioni. Nel momento nel quale hai delle persone sul tuo territorio che fanno richiesta di asilo. Siete d'accordo, non siete d'accordo, poco importa. Non lo puoi gestire in questo modo, mettendo 1200 persone in uno stesso luogo, senza un minimo criterio di igiene, sanità e via dicendo, e lasciarli là dentro sperando che succeda qualcosa, invece magari di distribuire un po' meglio le cose e organizzarle un po' meglio. Punto. È un problema di come viene gestita la cosa. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo, e poi questa vicenda del Virgilio, scuola del centro di Roma, nella quale succedono un po' di cose particolari durante l'occupazione, ma anche non solo durante l'occupazione, con i genitori che sembrano apparentemente, almeno in parte, giustificare fatti che non andrebbero giustificati, almeno a nostro giudizio. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: è morto in carcere Totò Riina, il boss delle stragi. Ostia Molotov contro il portone di una sede del PD alla vigilia del voto. Carige Consob sospende i titoli dalla borsa. Studenti in piazza in tutta Italia, nuova protesta contro l'alternanza scuola-lavoro. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, prossima tappa del nostro Giro d'Italia è Roma. Che cosa succede al liceo Virgilio? Liceo che si trova in perfetto centro, si trova in via Giulia, per chi non la conoscesse siamo ad un passo da Campo dei Fiori, siamo appunto in pieno centro di Roma. Succede che già le polemiche c'erano state quando il liceo era stato occupato quest'anno, ed erano successe delle cose che non erano piaciute, perché c'erano delle feste con ingresso a pagamento e buttafuori. Addirittura si è scoperto nelle ultime ore due ragazzi che hanno fatto sesso a scuola, e le immagini sono girate su WhatsApp e poi finite addirittura in rete. E ora anche bombe carta o grossi petardi, questo esattamente non lo sappiamo, che esplodono nel cortile della scuola durante la ricreazione, e genitori che giustificano questi comportamenti. Carla Alfano è la dirigente scolastica del liceo ginnasio statale Virgilio di Roma. Buongiorno Alfano, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. E abbiamo veramente genitori che giustificano questi comportamenti? Purtroppo sì, chiaramente una minoranza, però c'è questo zoccolo duro che non è da quest'anno, ma sono vari anni, che tende a giustificare appunto come ragazzate dei comportamenti assurdi. Qui non si tratta dello spinello, dell'occupazione, del piccolo danno, perché mi direbbero tanti, questo succede in tutte le scuole. Qui sì, purtroppo ci sono delle situazioni molto, molto più gravi, reati veramente penali. L'ultima situazione, quella delle bombe carta. Sono bombe carta, io ho fatto la regolare denuncia dai carabinieri, e non sono pedardi. È chiaro che adesso alcune mammine, molti studenti, come il clamore si alza un po' troppo di livello, allora tendono tutto a rimettere come ragazzate. C'è stato due esplosioni nel cortile da fermarti il cuore, e poi mi dico: e se qualcuno dovesse avere una lesione al timpano, cosa racconto io ai genitori degli altri? Certo, giustamente. E poi è normale che questo possa avvenire all'interno di una scuola? E queste sono, ripeto, dire illegalità e dire poco, oltre alla sicurezza di tutti i ragazzi, dei miei professori e del personale scolastico. Ha presentato denuncia lei comunque? Certamente, certamente. E anche perché collegato a questa due esplosioni, una ieri e una l'altro ieri, visto che sono stati poi rimandati in classe e non succedeva nulla ai loro occhi, perché non ci siamo strappati i capelli, non ci siamo agitati, non abbiamo fatto niente di che, allora hanno fatto in maniera delinquenziale, organizzata, suonare l'allarme della scuola. Dico questo organizzata perché poi c'è una centralina, chiaramente, dalla quale risulta, da quale pulsante è stato suonato l'allarme per l'incendio, per l'evacuazione. che ovviamente non c'era né incendio né altro. Ben da 5 punti diversi, posti al piano terra, al primo piano, il secondo, il terzo e in ali diverse della scuola, contemporaneamente. Questo lei come la chiama? Ragazzata? No. Io la chiamo un'associazione a delinquere. E tra l'altro questo procurato allarme ha portato non solo ma anche la cosa più grave, e su un impianto antincendio danneggiato sono migliaia e migliaia di euro che i contribuenti di questi ragazzi, noi che paghiamo le tasse, dobbiamo pagare per questi 4 delinquentelli ricchi, noi dovremmo pagare per rifare tutto l'antincendio e che non funziona. E c'è anche dei professori che ovviamente non scendono più perché dicono è un falso allarme. E se invece fosse un allarme vero? Preside Alfano, io la ringrazio per essere stata con noi e per averci consegnato questo racconto. Carla Alfano, dirigente del liceo Virgilio, seguiremo l'evoluzione della vicenda. Abbiamo veramente un minuto e mezzo, però io questa cosa la voglio toccare. C'è la scuola più piccola d'Europa, quella di Alicudi, che rischia di chiudere, 3 alunni, se leggiamo 357 gradini e nessuna campanella, ma non ci sono più maestri. Mirella Fanti, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Lipari 1, sono complessivamente 6 scuole. Che cosa succede a questi 3 alunni di Alicudi? Buongiorno, sì, intanto vorrei precisare che gli alunni sono 4, perché per fortuna si è aggiunto anche un alunno dell'infanzia che non frequenta, diciamo, tutti i mesi, però è presente sull'isola. Allora, intanto il mio istituto, che è dislocato su 6 isole, è un istituto complicatissimo. In ogni caso sono dirigente di questo istituto da 10 anni e le assicuro che finché io sarò dirigente la scuola di Alicudi non chiuderà mai, anche perché ci teniamo moltissimo, è una piccola scuola, pochissimi alunni, intanto è cresciuta perché 4 anni fa, quando effettivamente ha rischiato di chiudere, gli alunni erano solo 2 e già oggi possiamo dire che, anche se di poco, sono raddoppiati. Esatto, abbiamo avuto il 50% di incremento, che su questi piccoli numeri è un grande successo. Questa battaglia l'abbiamo fatta insieme ai genitori, perché abbiamo deciso insieme di fare una nostra personale battaglia proprio con le istituzioni per tenerla aperta, e ci siamo riusciti. Certo, quest'anno abbiamo un avvicendamento un po' anomalo. Mi assicuri solo questo, perché stiamo per chiudere: riuscirete a supplire? Riusciremo a supplire. La docente supplente è arrivata questa mattina, è molto entusiasta, giovane entusiasta, ha fatto tutti i 357 gradini e ha promesso che lunedì sarà in servizio. Fantastico, e si terrà anche in forma. Grazie a Mirella Fanti, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Lipari 1. Noi ci fermiamo, traffico platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.